Parigi, 5 marzo 1815. Il pomeriggio di oggi è cominciato come tanti altri pomeriggi. Con l'aiuto di mio nipote Mario ho scritto una petizione a Luigi XVIII perché sia prorogata l'autorizzazione di soggiorno di Giulia, mia ospite. Giulia era seduta nel salotto piccolo e scriveva a Giuseppe in Svizzera una lunga e insignificante lettera. Quando entrò il conte Rosen e annunciò una visita, il duca d'Otranto, Monsieur Fouché. Quest'uomo, dalle innumerevoli esperienze, è per me incomprensibile. Quando nei giorni della rivoluzione i membri dell'Assemblea nazionale dovettero esprimere il loro voto sulla sorte del cittadino Luigi Capeto, il deputato Fouché pronunciò ad alta e chiara voce la parola morte. E adesso muove il cielo e la terra per farsi ricevere e ottenere una carica dal fratello del giustiziato? Si accomodi, dissi io disgustata. Giuseppe Fouché era eccitato. Sul suo volto di cartapecora ardevano delle macchie rosse. Feci servire il tè. Egli rimescolava compiaciuto nella sua tazza. Forse ho disturbato Vostra Altezza mentre ero occupata in qualche cosa di importante? Non gli risposi. Mia sorella ha scritto proprio ora una petizione che mi riguarda a Sua Maestà. A quale Maestà? Domandò Fouché. Era la più stupida domanda della terra. A Re Luigi, naturalmente, disse Giulia irritata. Per quanto è a mia conoscenza, non regna in Francia nessun'altra maestà. Ancora stamattina avrei avuto la possibilità di appoggiare la vostra petizione, madame. Beve un piccolo sorso e guardò allegramente Giulia. Infatti, Sua Maestà mi ha offerto una carica e anche molto importante, quella di ministro della polizia. Ma non è possibile! Mi sfuggì detto. E allora? Domandò Giulia spalancando gli occhi. Io ho rifiutato. Giuseppe Fouché beve parecchi graziosi sorsettini. Se il re vi offre il posto di ministro della polizia, vuol dire che non si sente sicuro e non sussiste ormai più alcun motivo per questo, intervenne Mario. E perché? Domandò Fouché stupefatto. La lista segreta sulla quale fai iscrivere non solo i partigiani della Repubblica, ma anche quelli dell'imperatore. La registrazione segreta di questi nomi basta a conferirgli un potere illimitato, affermò Mario. Dicono che il vostro nome sia il primo della lista, duca. Il re ha interrotto la compilazione di questa lista, disse Fouché, deponendo la tazza del tè su un tavolino. Al suo posto mi sentirei mal sicuro. Alla fin fine lui continua ad avanzare. Ma di che parlate, prego? Mi informai io. Dell'imperatore, naturalmente. Tutta la stanza incominciò a girare. Delle ombre danzavano davanti ai miei occhi. Ebbi l'impressione di perdere i sensi. Ciò non mi era più accaduto dal tempo in cui aspettavo Oscar. Come da lontano mi arrivava la voce di Fouché. L'imperatore si è imbarcato all'alba 11 giorni fa con le sue truppe e il 1º marzo è sbarcato a Cannes. E Mario, ma è fantastico! Non ha con sé che 400 uomini! Risposta di Fouché. Sono passati dalla sua parte, baciano il suo mantello e marciano con lui in trionfo su Parigi. E l'estero, duca? Il conte Rosen interveniva. Le potenze straniere? Désirée, sei molto pallida. Non ti senti bene? Era Giulia. E Fouché, presto, un bicchier d'acqua per Sua Altezza. Mi accostarono alle labbra un bicchier d'acqua. Bevvi. Il salotto cessò di girare. Vidi, anzi, più che mai netti i contorni delle cose. Il viso di mio nipote Mario avvampava. Tutto l'esercito è con lui. Non si possono ridurre alla metà gli stipendi degli ufficiali che hanno fatto grande questa nazione. Noi marceremo, marceremo ancora. Contro tutta l'Europa, disse Marcellina pungente. Suo marito non è ritornato. È caduto durante i combattimenti intorno a Parigi, ma tra le braccia di una ragazza che lo aveva nascosto. I miei occhi caddero su di un domestico che stava per dirmi qualche cosa e la sua voce era continuamente coperta dalle grida degli altri. Gli diedi modo di parlare. Un'altra visita, la marescialla Ney. La marescialla Ney ha la massa imponente di un granatiere e ti rovina addosso come un cataclisma. Gemente si precipitò nella stanza, mi strinse al suo poderoso seno e mi aggredì. Dunque, che cosa ne dite, madame? Oh, ma lui gliela farà vedere. Ha picchiato il pugno sul tavolo e ha urlato che gliela farà vedere lui. Sedetevi, madame la marescialle, la pregai, e spiegatemi chi la farà vedere e a chi. Mio marito all'imperatore, tuonò la marescialle e stramazzò sulla sedia più vicina. Ha ricevuto l'ordine adesso di schierare i suoi reggimenti contro l'imperatore a Besançon e di prenderlo prigioniero. Sapete che cosa ha risposto il mio vecchio Nei? Che lo prenderà come un toro furioso, lo chiuderà in una gabbia e lo farà vedere a tutto il paese. Perdonate, madame, io proprio non capisco perché il maresciallo Nei si infuria tanto contro il suo antico comandante supremo e imperatore, mormorò Fouché. Solo adesso la marescialla si accorse della sua presenza e divenne stranamente impacciata. Oh, anche voi qui? Sussurrò. E come mai? Non siete in disgrazia a corte? Non siete nei vostri poderi? Fouché sorrise e si strinse nelle spalle. Di colpo, allora, ella parve poco, anzi pochissimo sicura. Oh, ma non credete mica che l'imperatore la spunti un'altra volta? Bisbigliò con voce evanescente. Sì, disse Mario, forte e risoluto. Sì, madame, la spunterà. Giulia si alzò. Devo scrivere tutto questo a mio marito. Lo interesserà moltissimo. Fouché crollò il capo. Non datevi pena. La regia polizia intercetterebbe senz'altro la vostra lettera. Io sono certo, madame, che l'imperatore è già da un pezzo in relazione epistolare con vostro marito. Si deve supporre che l'imperatore abbia informato dei suoi piani già dall'alba tutti i suoi fratelli. Ma non vorrete dire che si tratta di un piano predisposto, duca? Sbuffò la marescialla. Mio marito avrebbe dovuto saperlo. Che l'esercito sia scontento, perché tanto agli ufficiali che alla truppa sono state dimezzate le paghe e ridotte le pensioni dei veterani, non può essere sfuggito all'attenzione del maresciallo Ney, tuo nome, mio nipote Mario. E neppure all'attenzione dell'imperatore all'alba, aggiunse in tono cortese Fouché e si accomiatò. Seguì una lunga pausa. Poi di colpo la marescialla Ney si voltò verso di me. La sua sedia scricchiolò, la sua voce profonda si gonfiò di rancore. Madame, come moglie di un maresciallo voi mi darete ragione? È una cosa. Siete in errore. Io non sono più la moglie di un maresciallo. Sono la principessa ereditaria di Svezia e Norvegia. Prego di scusarmi, ho mal di capo. Avevo mal di capo come non mai. Dolori rintronanti, martellanti. Mi coricai sul letto e non volli parlare con nessuno, neppure con me stessa. Ma no, ci si può nascondere alla propria famiglia, si può sfuggire alla propria servitù, ma in nessun caso si può scampare da Ortensia. Alle 8 di sera, Maria mi annunciò l'ex regina d'Olanda, ora duchessa di Saint-Lieu. Io mi tirai la coperta sul capo. 5 minuti dopo, Marcellina piagnucolava alla mia porta. Zia, devi venire! Ortensia è nel salotto piccolo e dice che ti aspetterà anche per tutta la notte. Ha condotto con sé anche i suoi figli. Non mi mossi. 10 minuti dopo Giulia si curvò sul mio letto. Desiree, non devi essere così dura. La povera Ortensia ti scongiura di riceverla. Mi arresi allora al mio destino. Falla entrare, ma solo per un momento. Ortensia spinse avanti i suoi figli. Non rifiutate la vostra protezione ai miei poveri figliuoli, accoglieteli finché tutto sarà risolto. Singhiozzò. In quest'ultimo anno Ortensia è assai dimagrita, i suoi abiti a lutto la fanno apparire pallidissima, i suoi capelli scoloriti sono trascurati e in disordine. Ma i vostri figli non sono in pericolo, dissi io. Ma sì, bisbigliò agitata, il re li può far arrestare da un momento all'altro per valersene come ostaggi contro l'imperatore. I miei figli sono gli eredi della dinastia, madame. Ah, l'erede della dinastia si chiama Napoleone come suo padre, per adesso sta a Vienna, risposi io, calma. E se succedesse qualche cosa a quel fanciullo, nella sua prigionia, a Vienna, gorgogliò, allora, madame? I suoi sguardi accarezzavano i due angolosi ragazzi. Napoleone III, disse a bassa voce con uno strano sorriso folle e scostò al più giovane gli arruffiati capelli dalla fronte. I suoi occhi mi succhiavano. Il re non oserà inseguire i miei figli nella casa della principessa ereditaria di Svezia, vi scongiuro. I ragazzi, naturalmente, potranno restare qui. Napoleone, Luigi, Carlo Luigi Napoleone, baciate la mano della buona zia. Io mi tirai di nuovo in fretta le coperte sul capo. Ma quella sera non dovevo avere pace. Ero appena addormentata quando mi ridestò un chiarore di candela e un rumore lieve e insistente. Qualcuno frugava nel mio cassettone. Mi misi a sedere. Giulia, cerchi qualche cosa. La mia corona, Desiree. Sai per caso che ne è stato della mia corona piccola che avevo dimenticata allora nel tuo spogliatoio? Sì, ha rotolato qua e là per più giorni, poi l'ho messa nell'ultimo cassetto, sotto le mutande pesanti della Svezia. Ma che vuoi farne adesso, nel bel mezzo della notte, della tua corona, Giulia? Volevo soltanto provarla, disse sottovoce, e magari illustrarla perché brilli ancora. Parigi, 20 marzo 1815. Ieri notte Luigi XVIII è fuggito dalle Tuilerie per una porta di servizio. Poi i Borboni sono fuggiti per il loro solito esilio, soltanto fino a Gand, dicono. Il vecchio signore doveva essere molto stanco. Nella mattinata il generale Exelman ha fatto occupare le Tuilerie abbandonate e issare il tricolore. Per le vie si distribuiscono dei volantini con un proclama di Napoleone e non esiste più un uomo che abbia portato una coccarda bianca. Sui baveri di tutte le giubbe sono appuntati dei nastri bianco-rosso-azzurri. Occhielli e baveri sono tolleranti e molto consumati. I lacchè e le pulitrici delle Tuilerie, sempre gli stessi naturalmente, lavorano e sudano ancora una volta come forsennati. Si tolgono le nuove tende e portiere, si tirano fuori dai magazzini e si appendono quelle verdi col segno dell'ape. Ortensia ha assunto il comando in capo, manda a prendere in cantina tutte le aquile dorate e le spolvera personalmente. Anche in camera mia, purtroppo, tutto è sottosopra. Un corriere dell'imperatore ha annunciato a Giulia che Sua Maestà giungerà alle Tuilerie verso le 9 di sera. Benissimo. Giulia vi si troverà ammantata di porpora con in capo la corona di principessa imperiale, storta probabilmente. È così eccitata e distratta che non riesce neppure a pettinare le sue figliuole. Tutta la famiglia è ancora in viaggio. Ortensia e io lo dovremo ricevere. Noi sole, Desirée. Io ho tanto timore di lui. Ah, è assurdo, Giulia. In fin dei conti è sempre lo stesso Bonaparte di Marsiglia. Tuo cognato, Giulia. Perché si dovrebbe averne paura? Ma è proprio lo stesso? Questa marcia trionfale dall'Elba a Cannes, da Cannes a Grenoble e a Parigi, questi reggimenti che cascano in ginocchio davanti a lui, il maresciallo Ney. Già, il valoroso maresciallo Ney è passato a lui a bandiere spiegate. Tutto l'esercito pensa che adesso le cose torneranno esattamente come prima. Gratifiche di guerra, promozioni di volata, bastoni di maresciallo, posti di governatore, distribuzione di regni. Giulia, l'esercito esulta, ma tutti gli altri tacciono. Ella mi guardò senza capire, poi si fece prestare gli orecchini della regina vedova di Svezia e scomparve. È sperabile che Giuseppe le riporti i suoi gioielli. Intanto Maria aveva collocato la mia tinozza nello spogliatoio e strofinava a dovere i ragazzi Bonaparte. Andranno poi alle Tuilerie in carrozza con Giulia. Per desiderio di Ortensia ho dovuto arricciare i loro lisci capelli col ferro caldo. Credi che tornerà, zia? Mi domandò improvvisamente Luigi Napoleone. Certo, l'imperatore è già quasi a Parigi. Voglio dire, suo figlio, il piccolo re di Roma, disse Luigi Napoleone, esitante ed evitando di guardarmi. Senza rispondere, feci col ferro al terzo Napoleone un ultimo ricciolo. Poi ho preso il mio libro e ho incominciato a scrivere. Notte. Alle 8 di sera una vettura di corte uscita dalle rimesse delle Tuilerie è venuta a prendere Giulia e i ragazzi. La carrozza recava ancora lo stemma dei Borboni. In casa mia si fece un grande silenzio. Io incominciai a girare inquieta per le stanze. Il conte Rosen si era affacciato a una finestra aperta. Ci andrei volentieri, confessò. Dove? Ah, oh, sì, alle Tuilerie vorrei assistere all'arrivo. Mettetevi un abito borghese, appuntatevi un nastro tricolore e aspettatemi, mi scappò detto. Lui mi guardò sconcertato. Fate presto, gli dissi. Poi mi buttai addosso un modesto cappotto e mi misi un cappello. Non fu facile arrivare alle Tuilerie. Dapprima noleggiammo una carrozza, poi scendemmo perché a piedi si procedeva più spediti. Una folla densa, impenetrabile, si accalcava verso le Tuilerie. Tutti spingevano e venivano spinti. Io mi afferravo disperatamente al braccio del mio giovane conte per non smarrirmi nella calca. Incastrati fra la gente, fummo sospinti innanzi. Le Tuilerie erano tutte illuminate come nelle notti delle grandi feste, ma io sapevo che il salone era quasi vuoto. Giulia, Ortensia, due bambine, due ragazzetti, il duca di Vicenza e il maresciallo Davout, forse anche due o tre generali. Nessun altro. Improvvisamente delle guardie a cavallo caricarono la folla. Largo! Largo! In lontananza pareva che si fosse scatenato un temporale. La bufera si propagò, rombò più vicina e ci travolse. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Le facce degli astanti non erano altro che bocche e tutte quelle bocche urlavano insieme. Comparve una carrozza, i cavalli si lanciarono al galoppo verso le Tuilerie, ufficiali di tutte le armi, di tutti i reggimenti le galoppavano dietro. Intorno e sopra di noi rintronava un unico grido. Sulla scalinata esterna comparvero subito dei domestici con torce. Venne aperto lo sportello. Per una frazione di secondo scorsi la figura dell'imperatore, poi dalla carrozza scese il maresciallo Ney. La folla mareggiò in avanti, ruppe i cordoni della guardia. La faccia dell'imperatore ondeggiò su tutte quelle spalle. Lo portarono su per la scalinata, in trionfo, lo riportarono alle Tuilerie. Il suo volto era illuminato dal chiarore delle torce. Sorrideva, ad occhi chiusi, bramoso e sensuale come un assetato che finalmente può bere. E un'altra volta fummo ricacciati indietro. Un'altra carrozza arrivò di gran corsa. Di nuovo tutti torsero il collo per vedere, poi mormorarono, delusi. Era soltanto Fouché che veniva a dare il benvenuto all'imperatore. Fouché che gli offriva i suoi servigi. Ne ebbi abbastanza. Nel ritorno, Rosen dovette aprirmi un varco tra la calca, ma quando fummo sull'altra riva della Senna, ci aggirammo per strade deserte. Non si deve esagerare l'importanza di 2 o 3.000 curiosi altezza. I nostri passi risuonavano. Giungemmo in vista della mia casa, tetra e disadorna tra le sue vicine. Su tutti i tetti sventolava il tricolore. Parigi, 18 giugno 1815. Maria mi aveva appena portato a letto la prima colazione che improvvisamente i cannoni presero a tuonare e tutte le campane suonarono. Signore Dio, ha vinto davvero? Disse Maria. In quel momento ci accorgemmo veramente che non ce l'eravamo aspettato. Non noi e neppure gli altri, ma i cannoni davanti al Dom des Invalides e le campane di Notre-Dame annunciavano la vittoria. Era tutto come una volta. Giulia abita di nuovo con Giuseppe nel palazzo dell'Eliseo. Madame Letizia e tutti Bonaparte sono tornati. Ma alle Tuilerie la padrona di casa è Ortensia ora. Cena con Napoleone e organizza dei balli per abbreviare le sue notti, perché di notte Napoleone si aggira per le vuote stanze dell'imperatrice e la camera abbandonata del piccolo re di Roma. Ha scritto a Maria Luisa lettere su lettere e ha comprato un cavallo a dondolo. Il boudoir di Maria Luisa è stato ritappezzato. L'imperatore sollecitava gli operai. Sua maestà l'imperatrice può arrivare da Vienna da un momento all'altro. Ma a Maria Luisa e il bambino non sono giunti. Subito dopo il suo ritorno, Napoleone ha indetto le elezioni. Il loro esito doveva dimostrare all'estero quanto siano odiati qui i Borboni. Erano le prime libere elezioni dal tempo della Repubblica. Così la Francia ha eletto la sua nuova Assemblea nazionale. Carnot è diventato deputato. Lafayette. Non può essere quello, pensai, quando lessi nel Moniteur i risultati delle elezioni. Ma Maria diceva che era proprio quello. Quel generale Lafayette che per primo ha proclamato i diritti dell'uomo. Com'è possibile che in tutti questi anni non ci si sia più ricordati di Lafayette? Papà ce ne parlava così spesso quando eravamo bambini. Raccontava del marchese Lafayette che a 19 anni aveva armato una nave sua ed era partito per l'America del Nord per combattere volontario per l'indipendenza degli Stati Uniti. Per questo il primo congresso americano lo aveva nominato maggior generale. Con lui l'americano Washington ha elaborato la prima Costituzione americana e poi Lafayette è tornato in Francia. No, non ho dimenticato quello che tu raccontavi, papà. Lafayette ha raccolto dei volontari e con essi è tornato dal suo amico Washington. E questo corpo, Lafayette, in paese straniero si è battuto per la libertà e l'indipendenza. Un bel giorno, questo giovane marchese, indossando una sdrucita uniforme di generale, è salito alla tribuna dell'Assemblea Nazionale di Parigi e ha letto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Tu hai portato a casa il giornale con quella dichiarazione, papà, e l'hai letta alla tua piccola figlia, parola, perché non la dimenticasse. Lafayette, allora, ha fondato la Guardia Nazionale per la difesa della nostra giovane Repubblica. Ma poi che cosa ne è stato di lui? L'ho domandato a mio nipote Mario, ma lui non lo sapeva ed era del tutto indifferente. Giambattista saprebbe rispondermi, ma Giambattista è a Stoccolma. Il suo ambasciatore ha lasciato Parigi, tutti i diplomatici stranieri sono partiti. L'estero non mantiene più relazioni diplomatiche con Napoleone. Le potenze straniere non rispondono neppure alle sue lettere. Esse mandano soltanto delle armate, incessantemente, senza nessuna dichiarazione di guerra. Un esercito di 800.000 uomini marcia contro la Francia. Napoleone non ne ha che 100.000. Notte e giorno i gendarmi hanno dovuto percorrere i villaggi per trovare giovani contadini atti alle armi e per requisire cavalli. I giovani contadini si nascondevano e cavalli non ce n'è più. Gli ufficiali che un giorno hanno cavalcato con lui di vittoria in vittoria presentano dei certificati medici. Napoleone li ha delusi. Le casse dello Stato sono vuote, gli stipendi non sono stati aumentati. Anche il mio bellicoso Mario deve improvvisamente fare una cura di bagni. E i marescialli? I marescialli hanno delle tenute in campagna dove si sono ritirati. Con Napoleone non c'è che Davout. E Ney, i cui reggimenti sono passati tutti a Bonaparte e hanno trascinato con loro il comandante. Napoleone nomina in fretta maresciallo un certo generale Grouchy, poi alla testa del suo ultimo esercito marcia oltre il confine per fronteggiare gli alleati. Questo avveniva 3 giorni fa. Il suo ordine del giorno all'esercito è affisso dappertutto, lo sappiamo tutti a memoria. Per ciascun francese che abbia coraggio è giunto il momento di vincere o di morire. Dopo questo tremendo proclama, i valori in borsa sono caduti, anche di più, si accaparrano i viveri, i teatri sono vuoti, i ristoranti sono bui, a testa china, Parigi attende il colpo di grazia. Ed ecco che avviene il miracolo, le campane suonano vittoria. Mi vestii e scesi in giardino, un'ape ronzava, dapprima non me ne accorsi, ma poi sussultai e stetti in ascolto. Vi era adesso un silenzio di tomba. Le campane erano ammutolite, i cannoni tacevano, solo un'ape ronzava. Mi rallegrai quando vidi il visitatore. Non restar sola, per carità, in questo affannoso silenzio. Il visitatore era in abito borghese, stretto di spalle, di età indefinita. Gli andai incontro, il suo viso magro era segnato da molte piccole rughe. Poi incontrai il suo sguardo di miope. Luciano Bonaparte. Luciano, che era partito per l'esilio quando Napoleone era diventato imperatore, che in tutti questi anni ha vissuto in Inghilterra. Strano che sia tornato proprio adesso. Vi ricordate ancora di me, Désirée? Ero presente al vostro fidanzamento. Ci sedemmo su di una panchina. Perché siete tornato, Luciano? Già, perché? Dopo la restaurazione ero l'unico Bonaparte che potesse fare ciò che voleva. Sarei rimasto volentieri in Inghilterra. Poi ho saputo del suo ritorno. Luciano si appoggiò sulla schiena e guardò trasognato il giardino. Com'è bello questo cantuccio verde, così tranquillo, così meravigliosamente tranquillo. Le campane hanno orora cessato di suonare vittoria. È stato un errore, Désirée. Seguì con lo sguardo una farfalla. Il bravo maresciallo Davout, che Napoleone ha lasciato a Parigi per rafforzare il morale del cosiddetto fronte interno, ha fatto suonare troppo presto. Napoleone non è stato vittorioso che in un combattimento, il primo atto di una grande battaglia. È stato presso Charleroi. Ma la decisione si è avuta a Ligny e a Waterloo. E questa battaglia Napoleone l'ha perduta. Oh, guardate quella farfalla azzurra! E l'imperatore? Tornerà questa sera in tutta segretezza a Parigi, senza dare nell'occhio, capite? Scenderà all'Eliseo da Giuseppe e da Giulia, non alle Tuilerie. Le sale laggiù sono troppo grandi e vuote. Per ciascun francese che abbia coraggio è giunto il momento di vincere o di morire. Le avete lette le sue belle parole? Penso che sia penoso per lui non avere vinto e neppure essere morto. E l'esercito, Luciano? Quale esercito? Il suo, l'esercito francese. Ma non c'è più un esercito. Dei suoi 100.000 uomini, 60.000 sono caduti. Veramente non sono venuto qui per raccontarvi tutto questo. Volevo pregarvi soltanto, quando tutto sarà finito e potrete di nuovo scrivere a Giambattista Bernadotte, di salutarlo da parte mia. Io ripenso spesso a lui. Luciano, perché siete venuto proprio da me? Per trascorrere dove che fosse 10 minuti tranquilli. Il governo è già informato e l'Assemblea nazionale siede in permanenza come ai giorni della rivoluzione. Si alzò. E adesso devo andarmene e aspettare gli altri corrieri. Ma io lo trattenni. Questo Lafayette, Luciano, questo deputato Lafayette, è quello stesso che ha proclamato i diritti dell'uomo? Egli fece cenno di sì. Credevo che fosse morto da un pezzo perché non si è udito più nulla di lui. perché si occupava del suo orticello, in una piccola, modestissima fattoria, Desiree. Allora, quando la plebaglia assaltò le Tuilerie e portò in giro sulle picche le teste tronche dei nobili, il deputato Lafayette protestò. Poi fu spiccato contro di lui un ordine di cattura. Lafayette dovette fuggire e fu arrestato dagli austriaci che lo tennero prigioniero per alcuni anni. Solo al tempo del consolato fu rilasciato e tornò in Francia. E poi Luciano? Poi ha coltivato il suo orto, carote, pomodori, probabilmente anche asparagi. Quest'uomo ha combattuto tutta la vita per i diritti dell'uomo. Potete credere che potesse intendersi col primo console o con l'imperatore Napoleone? Accompagnai Luciano attraverso il giardino. Familiarmente egli mi prese per il braccio. Mi sono mosso spesso dei rimproveri. Allora, in brumaio, sono stato io a parlare per lui, all'Assemblea dei 500. Chinò il capo. Ma allora credevo ancora in lui. E adesso? Desire, scommettiamo. In Inghilterra si scommette volentieri. Che adesso lui mi manderà un'altra volta dai deputati? I deputati naturalmente chiederanno la sua abdicazione e lui mi pregherà di difenderlo. E sapete che cosa farò io? Sorrisi. Sì, voi lo difenderete. In realtà siete venuto solo per questo. Quando se ne fu andato, riflettei un momento. Tutto questo non è vero. Le campane hanno ancora suonato vittoria. Ma udii tosto il rumore di una carrozza. Comparve Ortensia e mi pregò, piangendo, di accogliere i suoi figli. Indifesi. 23 giugno 1815. Se ancora dopo tanti anni per la prima volta levo la mia voce, incominciò Lafayette in quella risolutiva seduta dell'Assemblea nazionale. Il moniteur ha stampato l'intero discorso. Stavo appunto leggendo nelle prime parole quando si spalancò l'uscio del mio boudoir ed entrò barcollando una Giulia singhiozzante e ululante. Cadde in ginocchio davanti a me e mi nascose in grembo il volto bagnato di lacrime. Le prime parole, appena comprensibili, che ella esalò furono queste: «Abdicato!» Poi non buttò fuori altro che singhiozzi e da ultimo: «I prussiani possono essere qui da un momento all'altro!» Entrò Maria. Adagiammo Giulia su di un divano, io mi sedetti accanto a lei, come una naufraga sul punto di affogare, ella si aggrappò a me. Ed è tornato nel cuore della notte, in una vecchia carrozza di posta che ha requisito chissà dove. La sua carrozza e il suo bagaglio, tutto è caduto nelle mani del generale Blücher. È venuto direttamente da noi all'Eliseo. Ha voluto parlare con tutti i fratelli e ai ministri, ma questi non sono rimasti che 5 minuti. Volevano tornare subito all'Assemblea nazionale. L'imperatore ha detto loro che deve arruolare immediatamente 100.000 uomini per formare un nuovo esercito. Sì, e poi ha preteso che il povero Luciano si recasse all'Assemblea per parlare a nome suo ai deputati e rimproverare la nazione che lo ha abbandonato. E Luciano è andato? Giulia fece cenno di sì. Sì, c'è andato. E dopo 20 minuti era già ritornato. Luciano era salito alla tribuna ed era stato aggredito con le più atroci invettive. Aveva atteso in silenzio. Non un muscolo del suo pallido volto si era contratto mentre i deputati urlavano: «A Babbo Naparte! A Babbo Naparte!» Sono quando gli gettarono dei calamai, si tolse gli occhiali. Infine il presidente invitò l'assemblea alla calma e si fece silenzio. Luciano, con voce incolore, disse che la nazione aveva abbandonato suo fratello, ma allora è balzato in piedi Lafayette. E osate dir questo? Il nostro paese ha sacrificato in quasi 10 anni 3 milioni, 3 milioni dei suoi figli. Chiede ancora di più vostro fratello, ancora di più? Senza più parlare, Luciano era sceso dalla tribuna. So tutto questo da Fouché, che l'ha raccontato lui stesso, singhiozzava Giulia. Poi Giuseppe e Luciano hanno parlato tutta la notte con Napoleone. Fino all'alba ho dovuto servirgli un po' caffè, un po' cognac. L'imperatore non ha fatto che camminare su e giù e battere il pugno sul tavolo e urlare. Si premette le gracili mani sul volto. Giuseppe e Luciano sono riusciti a convincerlo ad abdicare. Giulia scosse il capo e le caddero inerti le mani. Questa mattina Lafayette ha dichiarato all'Assemblea nazionale: se il generale Bonaparte non abdica entro un'ora, proporrò la sua deposizione. Fouché è venuto a portarci questa notizia. Un'ora sola gli hanno lasciata. E tutta la giornata di ieri e la notte, obiettai io. Da ultimo l'imperatore ha firmato. Fouché era in piedi accanto a lui, ha abdicato in favore del re di Roma, ma questo ai ministri non importa. Maria incominciò come una volta a massaggiare le caviglie di Giulia. Senti, io all'Eliseo non ci ritorno, sussurrò improvvisamente Giulia. Faremo venire qui i ragazzi, io voglio rimanere qui. Si guardò intorno spaurita. In casa tua non mi potranno arrestare, non è vero? Qui no. Le truppe alleate non sono ancora a Parigi, forse non ci verranno neppure. Le labbra di Giulia tremavano. Le truppe alleate? No, il nostro governo, Désirée, il nostro governo. Hanno già mandato dall'imperatore un certo generale Becker con l'incarico di sorvegliarlo. Il direttorio. Il direttorio? Sì, il nuovo governo si chiama direttorio. Sta già trattando con gli alleati. Due dei cinque direttori sono Carnot e Fouché. Ho tanta paura di loro. Scoppiò di nuovo in un pianto dirotto. Sai, per la strada mi hanno gridato dietro, abbasso i Bonaparte! Si spalancò la porta. Giuseppe. Giulia, devi fare immediatamente i bagagli. L'imperatore vuole lasciare subito Parigi e trasferirsi alla Malmaison. Tutta la famiglia lo accompagna. Vieni, Giulia, ti prego. Come una maniaca, Giulia afferrò le mie spalle. Mai e poi mai mi avrebbe lasciata. Gli occhi di Giuseppe erano arrossati. Il suo volto, con le grandi sacche lacrimali, era cinereo. Si vedeva che non aveva dormito da 2 giorni. Tutta la famiglia va alla Malmaison, ripeté. Staccai allora le dita di Giulia dalle mie spalle. Giulia, tu devi andare con tuo marito. Ella scosse il capo, i suoi denti battevano. Per la strada gridano, abbasso i Bonaparte. Appunto per questo, Giulia, le dissi e la rialzai. Vi pregherei di far condurre Giulia, le bambine e me alla Malmaison nella vostra carrozza, mormorò Giuseppe senza guardarmi in faccia. Volevo prestare la carrozza a Madame Letizia, ma forse ci potrete stare tutti, lo stemma svedese è chiaramente visibile. Ma tu mi aiuterai? Désirée, mi aiuterai, non è vero? Gridò Giulia. Giuseppe le si avvicinò prontamente e la cinse col braccio, poi la condusse alla porta. È quasi un anno da quando è morta Giuseppina. Alla Malmaison, ora, fioriscono tutte le rose.